cercare la realizzazione in una vita, trovare un senso che giustifichi questa fatica, sull'orlo di un oblio fatto di pregiudizi, baciare in bocca i vizi, cadendo negli abissi. Gli abissi della mente sono fiumi d'acqua pura, seguire la corrente, gestire la paura, paura di quello che in fondo non conosci. Non siamo mica pesci, ma rimaniamo tutti i giorni in rete, tutti i giorni in rete, tutti i giorni in rete. Ci confessiamo tutti i giorni in rete, tutti i giorni in rete, tutti i giorni in rete. Sei te, ah. Passare il tempo galleggiando in una bolla, capire frasi che son vittime di copia e incolla, lasciarsi andare ad emozioni virtuali ed essere leali con grafiche speciali, incuriosirsi della vita di ogni altro per aumentare i tuoi seguaci e fare il salto, mostrando un volto che tu in fondo non conosci. Scappare come pesci e rimanere tutti i giorni in rete, tutti i giorni in rete, tutti i giorni in rete. Ci confessiamo tutti i giorni in rete, tutti i giorni in rete, tutti i giorni in rete. Può bastare un Hare Krishna con un po' di Ho'oponopono per entrare in connessione col tuo lato un po' più buono, per svegliarti all'improvviso all'ombra dell'ultimo sole e capire che sei tu il tuo pescatore. Pescatore. E non scappare come un pesce, e non scappare come un pesce, e rimanere, rimanere, rimanere, rimanere. Tutti i giorni in rete, tutti i giorni in rete, tutti i giorni in rete. Ci confessiamo tutti i giorni in rete, tutti i giorni in rete, tutti i giorni in rete. Ci innamoriamo tutti i giorni in rete, tutti i giorni in rete, tutti i giorni in rete. E ci cazziamo tutti i giorni in rete, tutti i giorni in rete, tutti i giorni in rete. Ma il pescatore chi è? Pescatore sei te.